22 ed è la presentazione dell'altro libro recente del collega De Marchi che riguarda la sua produzione saggistica, appunto, sulle grandi religioni, sui rapporti delle grandi religioni, sull'aspetto teosofico. E l'altro è più nell'immediato, domani alle ore 18 al Circolo Cittadino viene presentata la rivista Il Cristallo. La rivista Il Cristallo a cui collabora il professor De Marchi, la mia pochezza, ma abbiamo la fortuna anche di avere il direttore, il professor Nolet, che appunto domani insieme al dottore delle donne e non ricordo chi presenterà il libro. Quindi un'occasione anche perché il Cristallo è una realtà molto importante, molto significativa e che diciamo indubbiamente va sostenuta. Parlavo dell'opera di Silvano De Marchi, opera che spazia, diciamo, dai lavori sulla letteratura tedesca, italiana, ma io direi sulla letteratura in genere, perché in realtà Silvano scrive giustamente su tutte le letterature. Oggi non è più possibile quello che forse era concepibile 50 anni fa, neppure diciamo un secolo fa, l'essere specialisti in una letteratura, in una storia di letteratura e non conoscere le altre. Già, diciamo, i grandi esempi nell'ambito italiano di Sanctis e Croce, ma in tutte le storie di letteratura, diciamo, limitarsi era impossibile. Oggi ciò è assolutamente impossibile. Oltre a questo, il professor De Marchi ha sempre coltivato la poesia, quindi la creazione, il poiein, e ha coltivato la filosofia che ha studiato, che ha insegnato, e se guardate poi, se avrete il tempo di guardare le opere anche qui esposte e proposte, ce ne sono di ambito filosofico e teosofico, segnatamente il 22. Si parlerà con l'avvocato Borzaga, con la presentazione dell'avvocato Borzaga, della presentazione appunto degli scritti teosofici più recenti del professor De Marchi. La grande cultura e la grande dottrina, non solo erudizione, ma dottrina che De Marchi possiede, è in qualche modo trasfusa nella sua poesia. Cerco di parlare un po' più lentamente, anche perché c'è un amico e parente che habla solo spagnolo, entonces, cerco di essere un pochino più comprensibile, insomma, rispetto all'incomprensibilità che in genere un po' mi caratterizza, me ne scuso. Ecco, Rovine, per esempio, che è un po' l'incipit di questa raccolta, l'inizio di questa raccolta che segnatamente, ecco, della sezione intitolata Figure, e se poi leggeranno il libro vedranno perché, no? Sono proprio figure, non nel senso più corrivo del termine, ma figurazioni, no? Bildo in tedesco, ecco. E questa prima poesia, che si chiama Rovine, è estremamente sintomatica, diciamo, di tutto il volume. Qui già la prefatrice, Liliana Porro Andrioli, nota con estrema intelligenza: il titolo è in qualche modo ossimorico, Luci al crepuscolo. Quindi anche quando, diciamo, si crede di essere in una fase crepuscolare, tra virgolette, della propria esistenza, ci sono profonde luci invece che la caratterizzano. Quindi anche quello che può apparire disforico, depressivo, eccetera, in realtà non è tale. Ecco, certo che nelle rovine che da cui tutti noi siamo attirati, anche perché ce l'hanno insegnato storia, archeologia, romantici, Ruskin, eccetera, no? Tutto quello che vogliamo, Schliemann, ovviamente, no? Per Ilio, per Troia, però, ecco, nelle rovine si annidano immagini come queste, no? Appesi alle travi dormono i pipistrelli. Non è un'immagine da film gore o da racconto horror. È una realtà in cui, diciamo, le rovine sono in qualche modo erose, non deprivate della loro grandezza, ma, diciamo, devono confrontarsi anche con quest'altro che evidentemente rimanda anche a quanto abbiamo in noi, no? Quindi agli aspetti crepuscolari che più o meno tutti noi in qualche momento, in qualche occasione esperiamo. Ecco, volevo segnalare anche intatta e ammutolita la campagna al capriccioso capovolgersi delle vicende umane. Ecco, volevo dire, appunto, nella chiarezza classica del verso di De Marchi, ci sono questi aspetti che sono molto forti: l'allitterazione, la presenza delle consonanze, qui in questo caso è la C ad essere in primo piano. E qual è il senso veicolato? A me non piace la parola messaggio, come sapete, io ritengo che i messaggi li porti il postino, scusate la battuta. Ecco, dice: e la mente vacilla al pensiero che tutto travolge, il fato inesorabile, il tempo impietoso. A parte, ecco, la bellezza della costruzione, che è appunto alla latina, quindi il soggetto in fondo, ma ecco, naturalmente questo sema disforico, questo significato malinconico, ma anche un po' di più, diciamo, non è insidiato, ma gli ultimi due versi: stridono le cicale tra gli ulivi sotto un sole accecante. Quindi rimane anche in qualche modo il motivo della speranza. Questo poi naturalmente nella conferenza che faranno, purtroppo non potrò esserci, sugli aspetti teosofici, verrà ampiamente illustrato. Idem, con le diversità del caso, in paesaggio scozzese, per esempio, dove loro sanno che la Scozia è molto attraente, no? È una delle mete anche turistiche preferite. Non è il caso, naturalmente, del professor De Marchi, che è un viaggiatore e non è un turista. Ecco, stato, ha detto bene, e noi sappiamo con Xavier de Maistre che i viaggi più belli sono autour de ma chambre, no? Attorno alla mia camera, no? Io dico talora anche nella camera, no? Lo dico da... marito rompiscatole che all'una di notte è ancora dietro a leggere cose e quindi rompe un po' le scatole a chi vorrebbe giustamente dormire, ma questo è, ecco. Il pensiero del passato di religiosi conflitti e di sangue, quindi anche nella dolce e ridente, indubbiamente, Scozia, si annidano i ricordi che del resto sono in tutti noi, no? La storia ci insegna che tra Inghilterra e Scozia, insomma, le cose non sono mai andate molto bene. Tuttora gli scozzesi, non so, c'è una figura emblematica anche nel Parlamento scozzese, a tutti voi nota, che è Sean Connery, l'ex James Bond, che rivendica sempre la sua radice celtica e non anglosassone, no? Per dire appunto siamo celti, siamo scozzesi, non siamo inglesi. Segue il dolore, si addice agli oppressi e il titolo è mutuato proprio con grande finezza e intelligenza, come sa fare Silvano, da Eugene O'Neill, cioè il lutto si addice ad Elettra. L'avranno visto, l'avranno letto, ecco. Qui naturalmente il problema è quello agostiniano, si Deus, unde malum, cioè se c'è Dio, perché il male, com'è possibile il male? Dio non interviene, dice De Marchi, nel dolore innocente, forse non ha torto Epicuro, dicesti, che a intervenire si incrina la divina felicità, il dolore si addice agli oppressi. Adesso io leggo molto male, ma cerco di sottolineare un po' le cose, no? Gli attori poi naturalmente leggono da attori, è molto meglio, ma ecco, per sottolineare anche la capacità icastica che il professor De Marchi trasfonde appunto nelle sue opere. Poi non sarà possibile purtroppo parlare di tutte le opere, tutte le poesie proposte. C'è Alba a passo Tubre, e qui per esempio ecco, la vivezza degli elementi naturali è assolutamente presente, anche oserei dire quasi il cromatismo del mondo naturale, sia vegetale sia animale, con delle soluzioni. Adesso non vorrei anticipare troppo perché qualcosa dovrebbe anche rimanere un po' in sospeso, no? Per farvi non sospirare, ma piacevolmente sorprendere, no? O Naviglio a Milano, qui ricordo che il professor De Marchi ha passato gli anni degli studi accademici a Milano, quindi sono ricordi anche particolarmente come gli altri, ma come quelli appunto della natura più vicina, sono ricordi profondi, ricordi che gettano un solco molto profondo. Ecco, poi ancora per andare di là, ecco, e passare a un'altra sezione un pochino ancora più disforica, se vogliono, ma ripeto, c'è questa doppiezza feconda, quindi luci al crepuscolo, non solo il crepuscolo, ma la predominanza va alle luci. Uccello migratore, e qui nella traduzione appunto dei 70, dei Septuaginta, omnia tempus habent, no? Dall'Ecclesiaste o dal Qohelet che dir si voglia, no? Ecco, uccello migratore, e qui appunto c'è una comparazione tra l'esperienza dell'uccello migratore e quella del poeta quando appunto peregrinava, quindi era appunto un viaggiatore, non un turista, ripeto. Ora non resta che ricordare, perché c'è un tempo per vivere e uno per lentamente morire. Qui speriamo lentissimamente, io mi permetto di aggiungere, ma è una significativa, ecco, è una significativa variazione al testo immortale del Qohelet. Poi, appunto, proseguendo ancora, come il vento, no, dunque, no, scusate, cantano i merli, e qui, anche qui, ecco, tornano i neri pipistrelli che abbiamo trovato nel componimento Rovine, se si ricordano, e però. Poi l'interrogazione di fondo: è la morte una fine apparente che genera dolore? Domanda, no? Pregunta. Fosse così, ci potremmo ancora consolare nell'illusione un giorno di ritrovarci e nella nostra pace, uscendo dal ciclo doloroso, tutto di quaggiù dimenticare. Anche qui, naturalmente. Diciamo, c'è la dottrina filosofica e segnatamente teosofica, ma non viene né calata dall'alto né imposta, viene poeticamente appunto tematizzata. Questo è estremamente importante perché ci troviamo spesso, e qui anche una nota dolorosamente autocritica, di fronte a poetiche che sono un po' troppo, come dire, saccenti, no? O credono di in qualche modo comunicare un verbo invece di comunicare, ecco, delle impressioni che nascono, sì, e si rapportano con delle riflessioni, ma evidentemente la poesia, collega, mi corregga se sbaglio, ma credo, ecco, che la filosofia non debba e non possa soppiantare la poesia, né viceversa, no? Ecco, poi c'è A Santa Valpurga, anche qui siamo in un ambito di diretta esperienzialità, ma si ricorda appunto che a Santa Valpurga d'inverno tengono i morti in soffitta, e qui anche in nota è ricordato come sia un'abitudine in qualche modo, in un'altra poesia, che forse non è nella scelta, nella silloge, diciamo, dentro la silloge che gli attori propongono, dove si parla della bara, no? Ecco, ricordo per esempio che l'ammiraglio Nelson teneva la bara sotto il letto, no? Così è un qualcosa che dà un retaggio e naturalmente ci richiama al Memento Mori, no? Che è di tradizione e medievale e poi della riforma cattolica o della controriforma, che dir si voglia. Ecco, così tutti si sentono più vicini al proprio caro. Ecco, qui abbiamo un amico che viene dall'America Latina e in America Latina le novene per i defunti e la presenza, la compresenza dei vivi e dei morti, avrebbe detto Aldo Capitini, pensatore italiano troppo dimenticato. Ecco, qui, ecco, questo da noi viene un po' a mancare, no? In celebrazioni funebri molto spesso fredde, molto spesso così anche poco sentite, no? Questo è un aspetto. Mentre nella realtà appunto della montagna o nella realtà lontana, diciamo, dai grandi agglomerati urbani e da dove si è instaurato quello che è fecondo, ma rischia anche di essere pericoloso, cioè un laicismo estremo, spesso forclude in qualche modo. Ecco, il pozzo, io poi appunto tutto non. Qui l'immagine è legata all'amore, ma in qualche modo con Freud, con Georges Bataille, con altri, Professor De Marchi ci ricorda che naturalmente queste immagini legate alla fusionalità, diciamo, data dall'amore, possono legarsi anche a immagini d'altro, no? Quindi il rapporto molto stretto che c'è tra Eros e Thanatos, tra amore e morte. Ecco, ancora. I tramonti di Istanbul, e qui però poi appunto l'esperienza è quella del viaggio interiore, oltre che quella del viaggio fatto, esperito, e questi ricordi, dice appunto il De Marchi nel Seconda Sestina, diciamo, ora li tengo nel cuore quei momenti con uguale stupore e smarrimento di chi sentiva svanire la coscienza e divenire intatto specchio, no? Qui noi sappiamo che lo specchio nella tradizione evangelica, ma anche in molte tradizioni diverse, in molte altre tradizioni religiose e di pensiero, anche col l'avvocato Borzaga mi accomuna, e con il professor De Marchi mi accomuna la passione per l'agnosi, no? Per il cristianesimo esoterico. Ecco, questa è una dimensione che è profondissima, no? Sarà profondissima nel misticismo medievale, ma anche, per esempio, in Jacob Böhme. L'immagine dello specchio è fortissima, per esempio, in Santa Teresa di Avila, però ecco, si trova anche in altre tradizioni religiose, tra l'altro anche in quelle orientali, no? Io mi considero sempre più un po' un occidentalista, anche perché per le lingue orientali c'è il grossissimo handicap delle lingue, no? Al di là di un po' di sanscrito, ma poco, diciamo, non, ecco. Quindi, oppure la poesia Ricordo, qui è una poesia che parte da un'esperienza, diciamo, euforica in qualche modo, perché dice: noi ragazzi infreddoliti dopo la messa di soppiatto uscivamo a tirarci le palle di neve, e anche la conclusione è in qualche modo legata alla serenità, all'armonia. Ci sorridevano i nostri cari dal vicino camposanto, irto di croci. È un'immagine che ha in sé, indubbiamente, il cimitero, la morte, ma anche il sorriso dei cari. Questo è ancora per richiamare appunto la valenza ossimorica che è nel titolo. Direi che la esprime al meglio. Ancora, ecco, Anamnesi, dove appunto Porto di Trebisonda e tutto quello che vi si lega e altri porti, Porto della perduta giovinezza, ecco, fra l'altro anche qui. Magari io sono troppo attento al fatto formale, ma segnalo: porto della perduta giovinezza, come altrove poi ci sono anafore, qui direi domina ancora l'allitterazione, che rivedo a donarmi momenti di liete e stranite memorie. Ecco, le memorie quindi sono liete ma anche stranite, no? Quindi c'è sempre una fondamentale, non direi doppiezza, ma proprio duplicità, no? E non, scusate qui, il dente batte, come si dice, no? Dove, no, il, ecco, quella cosa lì, dove l'ente duole, nel senso un po' della mia attuale professionalità, l'anamnesi è un momento fondamentale, non solo a livello medico, anche a livello psicologico, pedagogico, clinico, e la capacità di farla è di e da pochi. Perché sappiamo perché, perché alcune cose ci fanno soffrire, no? Quindi immergersi in questo naturalmente non è sempre. Chi ha la capacità di farlo, come i poeti hanno, naturalmente è molto meglio, no? Di quanto. Ecco, nella sezione che si chiama J'accuse, naturalmente il richiamo è a Émile Zola, che voi sapete a fine del 1800 e nel 1900 aveva difeso, scusate, Dreyfus, che era stato ingiustamente incolpato, era un alto ufficiale dell'esercito francese, era stato accusato di essere una spia al servizio della Germania. Non era assolutamente così, in realtà si voleva colpire Dreyfus perché è di origini ebraiche. Ecco, il problema qui appunto sull'anima mortale o immortale e la soluzione, qui si tratta di un islamico senza nessun rancore, anche tra l'altro segnalo la vicina poesia che è Kamikaze, vicina dico nel libro anche nella composizione credo, c'è tutta una riflessione però molto distesa e molto comprensibile, dice alla fine trovò la soluzione, varcata la soglia dell'oltre, di sicuro lo saprò. Questo se c'è appunto un'altra dimensione. Poi ecco nel canto desolato, qui per proseguire un po' analiticamente per quanto è possibile, anche qui tutte immagini che hanno in sé, diciamo, la capacità di andare appunto verso l'oltre, verso una dimensione che è profondamente spirituale. E segnalo solo alcune cose, ecco qui, come Davide non danzerò davanti al Signore, sono la falena che vicino alla fiamma teme di bruciarsi le ali, ma anche, ecco, un grigiore violetto in pone sul cielo e la terra un silenzio di caserma prussiana, come viva ora la notte, et cetera, diciamo. E ancora, e tu, maiuscolo, che nella notte irrompi furente e imperversi nell'anima con imperiose, inquietanti richieste, o lasciaci vivere come animale, che si sazia di erbe e alle sorgenti si disseta come il fanciullo lieto che la realtà confonde col sogno. Quindi anche e il richiamo naturalmente a Giobbe, questo ci coinvolge poi particolarmente. Ma, ecco, nel Igitur, l'ultima sezione, Igitur appunto, io lo dico come si pronunciava anticamente, segnalo la poesia vuoto, dice, e perdersi in un'eco infinita, vuoto, vuoto. Non è solo un gioco fonetico, è perché, come ben sappiamo, e il collega De Marchi ci insegna, nell'Antico Testamento si parla del Tohuwut, cioè a dire il caos primordiale, da cui invece poi nasce l'armonia della creazione, no? Da parte di Yahweh. Però diciamo Dio crea a partire da un caos in qualche modo indistinto e appunto la stessa parola vuoto, anche simile nelle altre lingue neolatine, deriva appunto da questo tohuwut, no? Che è nell'ebraico, in questo caso non nell'aramaico antico. E ancora in Exitus si smarrì l'anima dinanzi a quell'immenso vuoto, dove anche dal punto di vista del grafema, vuoto è scritto maiuscolo. Doloroso è il mutamento, il dolore si mutò in etere, l'anima si fece onda migrante e l'universo la salutò con luci, colori e cosmiche sinfonie. Si unì al tutto ed ebbra, dimenticò il finito. Vedete, ecco, tutto questo naturalmente può essere benissimo espresso in una e mi spiace appunto di non esserci in una trattazione quale quella che sentiranno chi potrà lunedì 22, qui, come è già stato ricordato, la poesia ha questa capacità, segnalo, risegnalo, in qualche modo questa sinestesia feconda, no? Luci, colori e cosmiche sinfonie. Poi si lega, fra l'altro, a tutto l'immaginario cosmologico, quando Copernico, Galileo e Kepler un po' meno, ma soprattutto Copernico, parlava delle sinfonie, no? Del cosmo. Ecco.